9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 3 settembre e oggi è una puntata che è l'ideale, assoluta, coerente continuazione rispetto a quella di ieri. Naturalmente non è che chi non abbia ascoltato ieri non capisce quella di oggi, ma il tema è analogo ma con un obiettivo di osservazione molto più esteso come campo. Perché ieri, ricordate, abbiamo preso questo esempio che abbiamo trovato affondato nelle pagine dei giornali regionali del Friuli, di questo comune paullaro in cui il sindaco ci ha spiegato come attualmente, avendo dovuto ridurre le proprie attività di organizzazione diretta e di gestione diretta dei servizi pubblici, aveva dovuto cedere i servizi idrici, i servizi cimiteriali, si trovava ad avere una pianta organica eccedente e dopo aver legge e contratto dei dipendenti pubblici regionali, perché lì c'è uno statuto speciale alla mano, avviato le procedure di mobilità, visto che il sindacato non era d'accordo, si era alzato dal tavolo e se n'era andato, dice: io vi metto in mobilità comunque. Questo articolo del contratto dei dipendenti pubblici alla mano come le dà facoltà, questa sentenza della Corte di Cassazione che mi dà la facoltà di anteporre le esigenze tecniche organizzative del comune e quindi la necessità di rientrare sulle spese come indicatemi dalla Corte dei Conti. E due anni di mobilità, dopodiché se non venite chiamati da altre amministrazioni pubbliche, signori, si licenzia nel settore pubblico. Oggi ci occupiamo di una cosa di assai più vasta scala, che anche questa non avete trovato se non su un giornale, il Giornale di Napoli, Il Mattino, che con grande acume giornalistico, perché ha anticipato la notizia, ma che vi insiste da qualche giorno a questa parte, perché stiamo parlando di una delle regioni del sud più importanti e più delicate, cioè la Campania. La Campania si trova ad aver ereditato un debito molto consistente, intorno ai 6 miliardi, e uno sfondamento dell'anno 2009 con la gestione precedente affidata al presidente Bassolino di 1,1 miliardi di euro aggiuntivi. Ci sono state, lo ricordo tutto, le elezioni mesi fa, Caldoro, il presidente con la giunta del centrodestra, subentra trovandosi in una condizione terribile dal punto di vista finanziario e contabile. La regione è in procedura oltretutto di rientro coatto per il deficit sanitario, scatta oltretutto l'aliquota aggiuntiva, non solo quella IRPEF ma quella IRAP, che colpisce quindi le imprese della regione e chi tenta di offrire occupazione ordinaria e aggiuntiva. E di fronte a questo, Il Mattino da due giorni a questa parte informa i suoi lettori che la finanziaria straordinaria a cui sta lavorando la giunta, quindi il presidente Caldoro e l'assessore Sommese, si pone l'obiettivo addirittura. Sentiamo quale obiettivo, perché a questo punto io mi fermo e faccio parlare direttamente i protagonisti, perché come vedrete è un obiettivo di una certa importanza, di un certo impatto, destinato anche questo su più vasta scala, visto che stiamo parlando di una grandissima regione del sud al centro dell'attenzione per l'eccesso di debito e di deficit, che farà sicuramente molto parlare e che farà anche esso, credo, mi auguro, precedente. Sentiamo direttamente dai due protagonisti, da quello che ha tirato fuori giornalisticamente con i suoi giornalisti questa vicenda e naturalmente dal protagonista, cioè dall'assessore al personale della Regione Campania, Pasquale Sommese. Buongiorno assessore, grazie. Buongiorno a lei. E dal direttore del Mattino, Virman Cusenza, alla cui buon lavoro insieme alla sua squadra dobbiamo questa notizia. Buongiorno e grazie direttore. Buongiorno a voi. Allora, Sommese, vuole dirlo lei, assessore, per prima, qual è il punto, l'obiettivo di questo intervento a cui state lavorando sulla pianta organica della Regione Campania? Diciamo che dalla relazione degli ispettori inviati dal ministro Tremonti per verificare un po' i conti della Regione Campania, avendo, come lei diceva, sforato il patto di stabilità nella precedente amministrazione regionale, c'è la conferma ancora più grave delle nostre percezioni. E quindi indiscrezioni, perché non abbiamo ancora avuto agli atti la relazione degli ispettori stessi, però emerge chiaro la drammaticità dei conti della Campania. Allora, assessore, aspetti un secondo, perché come giusto io ho sbagliato. La prima domanda, poiché si tratta di indiscrezione, io la dovevo fare al direttore del Mattino, a Cusenza. Sì. Quindi se lei permette la faccio commentare dopo, perché non voglio metterla in imbarazzo istituzionale. Facciamo dire al direttore del Mattino, che cosa i suoi anticipano in questi giorni e qual è l'obiettivo, insomma, su cui ha fatto il titolo da due giorni a questa parte. Cusenza, allora, qual è l'obiettivo, un po' paradossalmente stringendolo e sintetizzandolo con qualche approssimazione, ma insomma i giornali devono fare il loro mestiere, visto che le anticipazioni l'assessore ce le sta confermando. L'obiettivo, diciamo, è tutto sommato semplice eppure ambiziosissimo, cioè mettere in ordine i conti della regione entro il 2012 per fare appunto della Campania una regione virtuosa. Come dire, tutto e niente, nel senso che, come sappiamo, di buone intenzioni è lastricata la via dell'inferno. E in Campania è abbastanza, sarà che c'è l'ingresso dell'Ade, insomma, nella regione, come tutti sanno, quindi probabilmente questo evoca più facilmente quella strada. A parte le battute, però, direi che, insomma, è un passaggio articolato in tre fasi. La prima è stata quella in cui si è, appunto, attraverso la relazione degli ispettori di Tremonti, focalizzato un po' l'entità del deficit, dove si annidano appunto gli sprechi, e si è fatto, diciamo, un conto di massima, almeno in base a quello che ci è risultato, insomma, dai documenti in nostro possesso, per arrivare a diciamo, focalizzare nei 7.000 dipendenti della regione una delle fonti di spreco più ampie, a parte il famoso deficit da 5 miliardi di euro della sanità. Di questi 7.000, la cura prevista dalla Giunta, non ancora ratificata come correttamente diceva l'assessore Sommese, prevederebbe appunto innanzitutto il pagamento degli stipendi con una riduzione del 20%, che comporta un risparmio, insomma, di una certa grandezza a breve. Dopodiché, almeno entro dicembre, poi dopodiché c'è l'aggiunta anche di un cosiddetto super ticket sanitario, che è un'altra, diciamo, un'altra via per il reperimento delle risorse. Tra l'altro, il super ticket è chiaro che è una misura impopolare e che comunque viene prevista a tempo, perché, insomma, immagino che i cittadini non saranno contenti di pagarlo, e riguarda un po' tutte le prestazioni mediche, ma anche, insomma, aspetti come dire, meno necessari, come le cure termali ad esempio. Comunque, insomma, questo è il secondo aspetto del super ticket. E quindi veniamo invece alla parte più clamorosa e innovativa, in fin dei conti, se verrà, effettivamente si riusciranno ad approvarla, della manovra economica che la Giunta Calderoli si appresta a varare, e cioè il trasferimento di metà dei dipendenti, 3.500 per l'appunto dei 7.000 che prima citavo, a varie amministrazioni, cioè comuni e province, i quali acquisirebbero evidentemente funzioni e personale, e naturalmente potrebbero pagare questi, cioè i dipendenti in particolare, attraverso la tassazione diretta, appunto, con le funzioni che verranno attribuite. Naturalmente la cosa è chiaro che non piace moltissimo a tutta una serie di amministrazioni che già sono con le casse a secco e che non vedono certezze nel reperimento delle risorse una volta che queste funzioni verranno assegnate e che questo personale verrà trasferito. Avete ascoltato chi ci segue da casa o dall'automobile, avete capito bene, qui si tratta non solo di una misura di emergenza temporanea, 20% in meno di retribuzioni eventualmente, ma l'obiettivo grosso, il bersaglio grosso, è quello di ridurre praticamente della metà l'intera pianta organica dei dipendenti di una grande regione del sud. Non si tratta, non mi coprite di insulti come ieri, di buttare per strada la gente ignorando i problemi delle loro famiglie e delle persone. Si tratta di dire: la regione non è compatibile con la capienza finanziaria, sia pur riducendo le spese, gli sprechi, con misure di tasse aggiuntive, di entrate straordinarie per il deficit sanitario, eccetera, eccetera. Però noi, facendo una proiezione temporale sulla base delle attuali entrate, ma anche di quelle che presumibilmente possiamo pensare di avere di qui a 3 anni, noi non siamo in condizione di permetterci più questa elefantiaca, o comunque eccessiva elefantiaca, manca di rispetto, eccessiva pianta organica. Quindi, siccome qua si parla di federalismo in fiere, di sussidiarietà, di attribuzione di competenze più basso, cari comuni e province della Campania, facciamo una bella gara competitiva, ve ne prendete la metà. E però auguri, perché dovete avere le risorse per pagarli. Allora, io mi permetto di dire che oltre all'importanza del risanamento della regione Campania come banco di prova di un sud che, visto che il federalismo i numeri non li conosciamo ancora, l'autonomia impositiva non la conosciamo ancora, ne iniziamo a delineare solo i punti, però intanto si devono mettere in marcia subito e lo stanno facendo, c'è anche sullo sfondo una questione molto ampia, perché voi capite che quando un'intera regione di questa importanza, di questa grandezza, deve mettere nell'obiettivo quello di una riduzione di questa importanza la sua pianta organica, vuol dire che c'è un problema molto rilevante nell'organizzazione dei poteri pubblici e di quanto costano sul totale del reddito prodotto della società. E per questo adesso chiedo all'assessore Sommese, non le chiedo di entrare nei dettagli e nei particolari di queste tre anticipazioni che sono di un grande rilievo, però insomma di spiegarne la filosofia e di quantomeno la convinzione di trovare poi nel comuni, nelle province, visto che si tratta di attribuzioni così importanti di personali, la giusta attenzione, ma anche nella vostra valutazione le risorse adeguate per venire incontro a un'organizzazione diversa con gli stessi dipendenti, ma a carico loro, per così dire, e delle loro finanze, in che arco temporale si potrebbe pensare di portare a casa un obiettivo di questo tipo, assessore Sommese? Intanto chiariamo che da queste indiscrezioni, ma noi non abbiamo ancora atti definitivi, ma posso certamente rassicurare che in questi giorni, appena conosciuto questi elementi, anche giornalisti, e ringrazio il direttore del Mattino che sta seguendo con grande attenzione, informando, sensibilizzando anche l'opinione pubblica sulla vicenda. Però devo certamente dire che sulla vicenda personale, perché quando vi sono tagli anche nei tempi brevi come quelli che la Campania è costretta a mettere in campo per evitare lo sforamento, e quindi anche nel 2011 con la doppia beffa, se dovessimo non raggiungere gli obiettivi, tutti devono comprendere che oltre ad avere minore risorse da parte del governo centrale nel 2011, noi non potremmo contrarre nessun mutuo, e quindi investimenti e quindi occupazione e blocco totale dello sviluppo. Detto questo, io credo che noi il 20% dello stipendio, così come sta emergendo, io lo escludo, perché non possiamo immaginare che i nostri dipendenti, già noi da quando siamo arrivati, tagli alle consulenze, agli sprechi, abbiamo licenziato poi 39 dirigenti apicali in quanto con contratti esterni, abbiamo messo in campo una serie di politiche del rigore tutte penalizzanti per il personale, immaginare addirittura unico nella storia della Repubblica Italiana tagliare lo stipendio, cioè noi abbiamo difficoltà, ma io ho spiegato che anche ai colleghi di Giunta, ma su questo anche il Presidente Caldoro, noi possiamo, dobbiamo vedere in tutti i rivoli del bilancio, però non possiamo assolutamente tagliare stipendi del 20% ai dipendenti, sarebbe contro la storia del nostro paese. In tutto questo però resta il problema. Ecco, perché talvolta di fronte a mali estremi bisogna anche innovare la storia, sì, però capisco che lei non può dire altrimenti, ma invece sulla pianta organica? Sulla pianta organica noi abbiamo grandi anomalie e divergenze tra la nostra regione e le altre regioni, perché il decentramento delle funzioni lo scontiamo in questo campo con grandi ritardi, per effetto dei quali compariamo in testa alla classifica come la regione con il più alto numero di personale dipendente. La verità è un'altra, altrove come in Lombardia ed altre regioni hanno trasferito le funzioni, risorse e dipendenti agli enti locali e alle agenzie partecipate così con leggi regionali. Noi non lo abbiamo fatto in questi anni ed è stato come quindi questo è l'obiettivo che noi ci siamo posti fin dall'inizio, e trasferendo quindi alle autonomie locali decisioni in alcuni settori, oltre a raggiungere gli obiettivi di snellire al massimo le procedure, utilizzare al meglio le risorse umane, favorire le aspettative dei cittadini, noi entriamo anche in un compito che è quello istitutivo delle regioni, cioè quella della programmazione, pianificazione, controlli, ma non certo gestione, perché quando una regione diventa gestione non è certamente un elemento positivo, e quindi con il passaggio delle funzioni, perché qui poi noi scontiamo un altro problema nel Mezzogiorno, che l'esercizio delle funzioni e l'esercizio invece del potere vengono assimilati come se fosse la stessa cosa. Dobbiamo comprendere che avere una funzione è un elemento nobile, non un esercizio di un potere da esercitare, e quindi noi faremo un decentramento forte, daremo le risorse compatibilmente con le nostre esigenze, ma certamente non possiamo avere una macchina regionale ancora con 6-7 mila dipendenti, oltre poi 6 mila dei forestali, oltre poi tutte quelle delle partecipate aggiuntive. Quindi noi dobbiamo mettere in capo alla regione tutte quelle risorse sufficienti per poter avere una serie di deleghe ai comuni, alle province, che sono gli enti più vicini al cittadino, e quindi questi ultimi poi devono interloquire con la regione, non certamente migliaia di cittadini che viaggiano negli uffici della regione per avere risposte, con duplicazione di competenze tra comuni, province. Insomma, siamo molto in ritardo, e il nostro obiettivo, sia nel programma sia dai primi atti che abbiamo avviato alla Regione Campania, è questo del decentramento spinto. Assessore, questo processo di decentramento spinto, compreso il passaggio delle piante organiche alla chi poi eserciterebbe non il controllo e l'indirizzo, cioè la regione, ma la gestione direttamente, cioè comuni e province, per avvenire con le regole attuali del pubblico impiego e l'ordinamento attuale del testo unico degli enti locali, deve avvenire, perché appunto il passaggio avvenga, basta che lo decida la regione, o c'è bisogno del concorso, della convergenza di opinioni preventiva dei singoli comuni, delle singole province che se li prendono? In altre parole, c'è un meccanismo, come abbiamo visto ieri nel caso dei dipendenti di quei comuni del Friuli, di mobilità che verrebbe acceso, o invece, trattandosi di attribuzione di funzione e quindi anche di piante organiche diretto, per diventare esecutivo questo meccanismo avrebbe bisogno del parere, cioè di una vera trattativa, della firma convergente, per così dire, oltre che della regione, di ogni singola amministrazione locale campana, che si prendesse questa funzione, questi dipendenti? No, noi con disegno di legge, perché già abbiamo contemporaneamente, ci siamo dati degli obiettivi in tre tappe. La prima è stata raggiunta, quella di modificare le funzioni dell'azienda regione, perché siamo ancora fermi ad una regione di 30 anni fa, senza con 23 aree, poi il capogabinetto, vecchi strumenti. Adesso noi abbiamo approvato, e l'obiettivo era questo, in modo straordinario, dopo decenni la Regione Campania si è dotata di una legge, quindi nella prossima giunta faremo anche i regolamenti, avremo direzioni generali, avremo segretariato di giunta, avremo uno snellimento e dimezzamento di capisettore e capiservizi, e poi inseriremo la logica del quadro, insomma una regione snella con attività per ottimizzare le risorse interne e modificare l'impostazione della regione, primo obiettivo. Secondo, e l'abbiamo raggiunto. Il secondo obiettivo era che ci siamo dati in una conferenza stampa a cui ha partecipato anche il prestigioso giornale Il Mattino, che è anche uno dei giornali più letto qui in Campania, e noi abbiamo dichiarato che nei prossimi mesi, e quindi per fine anno, dovremmo completare, perché presenteremo il disegno di legge come giunta nel prossimo mese, e per fine anno noi, grazie a questo raccordo con le autonomie locali, con le province, con i comuni, con le forze sociali già avviato, procederemo al decentramento. Successivamente, chiaramente non avverrà tutto in un colpo, stabiliremo per legge quali sono le funzioni che vengono delegate ai comuni, alle province, e poi nello stesso tempo avremo rapporti per consentire anche ai comuni di poter avere le funzioni con la logistica, con le risorse, ma anche con le sedi. Quindi non in una volta, ma nei 2 anni successivi noi faremo questa grande operazione di decentramento, avviando da alcune funzioni, quelle che sono più emergenziali. E io immagino funzioni come la formazione professionale, immagino alcune competenze del turismo, delle attività produttive, dove i cittadini si devono avere come interlocutore un solo ente. Io credo che debba essere quello più vicino, che è il comune, e poi deve essere il comune che interloquisce con gli enti superiori, non certamente il cittadino che deve peregrinare per i vari uffici, le migliaia di pareri, insomma. È intuitivo che la sussidiarietà sia l'organizzazione e la gestione del servizio al più basso livello, a diretto contatto, laddove deve risolvere il problema. È intuitivo che funzioni meglio piuttosto dell'accentramento. E, direttore Cusenza, dopo questi primi due giorni, le prime reazioni dei lettori del Mattino, non parlo solo della comunità, che pure è molto ampia, come abbiamo visto, dei dipendenti della regione, qual è stata ai titoli che avete fatto dicendo metà della pianta organica devoluta ad altre amministrazioni? È prevalso all'inizio un po' il timore, come se cascasse un gigante una volta constatato che aveva i piedi d'argilla delle entrate e del deficit, oppure invece la prima reazione è incoraggiante, per così dire? Sicuramente davanti a tutti i cambiamenti che riguardano la busta paga a fine mese c'è sempre preoccupazione, e quindi chiaramente la preoccupazione è prevalsa su, come dire, le aspettative benevole. Detto questo, mi pare che se per il percorso verrà accompagnato dalle opportune garanzie, non credo che ci possa essere una differenza tra l'essere impiegato all'assessorato X piuttosto che quello al comune Y. Quindi da questo punto di vista, se è veicolato bene e spiegato bene, questo percorso non può e non deve preoccupare, anzi, a mio giudizio, una cosa che razionalizza il sistema deve essere anche accolta positivamente. Quello che posso dire è che ovviamente mi ha fatto molto piacere che invece i lettori in massa si sono recati alle edicole per leggere di queste notizie, perché ho trovato che il filone sia ovviamente molto popolare, perché al di là dei 7.000 dipendenti appunto della regione e relative famiglie, c'è anche, come dire, la consapevolezza che si è davanti a un cambiamento epocale che al sud in particolare costituisce una novità assoluta, visto che finora insomma, come dire, eravamo più sulla scia del paese di Bengodi che in quello del risanamento. Ecco, questo mi sembra un punto, adesso interrompiamo per la pubblicità, nel quale allargheremo un pochino lo spettro delle osservazioni, perché dopo tanti anni in cui la questione del federalismo, della sussidiarietà era un refrain nord contro sud, col sud che puntava i piedi, alla fine, di fronte all'insostenibilità dei costi e delle tasse aggiuntive necessarie per continuare a reggere i deficit proiettati sul costo storico di amministrazioni troppo estese e con troppi poteri accentrati, ecco che al sud ci si mette in marcia. Sarà discutibile, io mi rendo conto, molti ascoltatori mi mandano gli sms che dicono: ma che cavolo dici, tanto non cambia di una unità il numero di dipendenti pubblici, quindi non si risparmia niente. Intanto, ragazzi e ragazze in ascolto, intanto se una regione mette mano a metà della propria pianta organica avendo questi problemi finanziari ereditati dal passato, intanto è una rottura di continuità rispetto alla storia pluridecennale del nostro paese senza precedenti. Come questo si farà? Se consentirà risparmi, oltre che, auspichiamo, una organizzazione più efficiente, più sussidiaria, più decentrata, più alla base dei servizi pubblici e a una riduzione del costo e alla qualità offerta, però intanto quello che conta è che emerge in maniera inevitabile un problema, cioè quello del perimetro delle attività e del numero di dipendenti. Quello che emerge è la contraddizione per cui un servizio pubblico non è pubblico in quanto è per forza gestito da dipendenti pubblici, ma è pubblico perché risponde a standard di qualità. Poi si vedrà chi lo gestisce meglio, si vedrà se deve essere continuato a gestire da dipendenti pubblici o lo possono fare, come secondo me sarebbe meglio, privati in concorrenza che rispettano standard di qualità, quelli sì invigilati dal pubblico. Comunque la regione Campania non è esattamente il comune di Revisondoli, con rispetto per Revisondoli, e quindi stiamo parlando di una grande rottura. Vediamo quanto di questo potrà riguardare poi la regione Campania, ma anche il resto del sud, per un atteggiamento più protagonista in questo dibattito sul federalismo, che fino a ieri sembrava riguardare il Sud solo per meno risorse e più problemi sociali oltre che di bilancio. Eccoci tornati, cari ascoltatori, avete visto le anticipazioni date dal Mattino, l'abbiamo commentate col suo direttore e con l'assessore al personale della Regione Campania Sommese, della manovra di rientro, anzi di un complesso riordino dell'intera macchina e degli obiettivi e degli strumenti attraverso cui la macchina della Regione Campania, di fronte al pesantissimo deficit e debito ereditato dal passato, mette mano in maniera strutturale alla propria organizzazione. E tra l'altro si parla di rinunciare con la giusta gradualità, ma anche rapidamente, entro un anno e mezzo, a metà dei suoi 7.000 dipendenti, dicendo in passato noi abbiamo tenuto tutto accentrato, gli altri hanno devoluto ad agenzie importanti funzioni, poi i comuni, le province devono decentrare sul territorio la gestione diretta, e quindi noi, oltre a riorganizzare la nostra macchina, metà della nostra pianta organica non ce la possiamo più permettere, ma non ce la vogliamo più permettere, in coerenza a questo disegno di riforma, metà della pianta organica. Allora, iniziamo a sentire come la pensano alcuni ascoltatori e poi allarghiamo la riflessione attraverso due nuovi ospiti. Abbiamo innanzitutto Francesco da Caserta tra gli ascoltatori. Francesco, come la pensa? Buongiorno dottore, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Io sono un ingegnere ambientale e lavoro a Caserta, ma anche in altre regioni d'Italia, il centro nord. Quindi forse ho la contezza di quello che dico, perché mi occupo di iter autorizzativi e abbiamo potuto in questi anni vedere la Regione Campania come ha dato vita a queste cose, iter autorizzativi lunghi che soprattutto per attività produttive, che per la Regione Campania sono vitali, hanno praticamente rallentato tutta la macchina burocratica. Per cui io, attestando questo, con una testimonianza che può essere condivisa da tutti gli altri addetti ai lavori come me, io consiglierei all'assessore Sommese e al nuovo presidente Caldoro di seguire queste persone che nella loro delocalizzazione, perché molti di questi sono stati per motivi politici, dopo 20 anni di Bassolino, lì inseriti a diversi livelli e non sanno lavorare. Lei dice c'è un eccesso nella macchina, la politica in passato ha messo troppi propri affiliati, c'è una distinzione netta tra l'indipendenza e la professionalità nella pubblica amministrazione e l'eccesso di politicizzazione, se capisco bene. Sentiamo poi l'assessore Sommese, naturalmente non credo che potrà o vorrà esprimere giudizi politici su questo, un conto è campagna elettorale, altro conto quando si coprono responsabilità istituzionali, però certo l'iperpoliticizzazione delle macchine amministrative italiane è un problema serio. Del resto noi abbiamo fatto i conti con un meccanismo di attuazione del cosiddetto spoil system un po' complicato, ci siamo arrivati tardi rispetto all'articolo 97 della nostra Costituzione, la garanzia dell'indipendenza della pubblica amministrazione, ci siamo arrivati con le Bassanini ricordate per i vertici apicali della pubblica amministrazione e con governi di colore diverso che quando cambiava il colore restringevano o ampliavano l'area di coloro che rientravano nella lista dei dirigenti apicali che potevano essere rimossi dalla politica, quindi siamo un paese con un'esperienza ridotta da questo punto di vista e questo attualmente poi lo sconta l'organizzazione concreta della pubblica amministrazione. Sentiamo tra i nostri ascoltatori Francesco, questa volta che ci chiama da Milano, che ne pensa Francesco? Pronto? Dica. Sì, salve. Io sintetizzare quello che ho da dire è un po' difficile, cercherò di fare uno sforzo. Io ho 25 anni che lavoro nel settore pubblica amministrazione, in particolare andando a individuare soluzioni per gli aspetti organizzativi della macchina comunale. E in particolare lo scorso anno è da un anno che ho lavorato in Campania. E purtroppo la situazione della Campania è una situazione gestita molto male a livello dei, come dire, degli amministratori, no? Che non sono in grado, no, di trovare quelle soluzioni, ovvero più che non sono in grado a volte non vogliono trovare soluzioni che potrebbero semplificare diciamo questo problema. E quindi recuperare anche risorse finanziarie sul territorio. Ma lei quando dice lavora lo fa come consulente per le pubbliche amministrazioni o perché come con un'impresa per cui lavora dovete interfacciarvi con i poteri pubblici? Lavoro per un'azienda che si occupa di aspetti software applicativo e organizzazione. Ah, e quindi sì, capisco. Io faccio solo un esempio, per capire meglio il concetto, perché sennò a volte si parla troppo politichese e la gente non capisce, no? Quando un comune mi dice io non c'ho i soldi, no? La prima cosa che mi viene in mente è: ma come gestisci tu il tuo territorio? No? In che senso? Allora, ci sono molti comuni in campagna che devono ancora fare l'accertamento dal 2006-2007. Questo vuol dire non avere i conti a posto per quanto riguarda le entrate tributarie in comune, no? Sarebbe sufficiente che questi comuni, no, facessero una bonifica delle informazioni dati incrociate con le banche dell'UTE piuttosto che le banche dati degli acquedotti, eccetera, da Tarso e dell'ICI, no, per scoprire una serie di elusori ed evasori, no, che attualmente fanno i furbetti e non pagano le tasse, no? Ci sono esempi in Lombardia dove comuni di 7.000 abitanti, piccoli quindi, no, hanno recuperato attraverso questo sistema dai 600-900 mila euro di maggiori entrate tributarie. La ringrazio dell'esempio che è stato molto concreto. Lei dice nel Sud si sconta che tra un po' di arretratezza organizzativa, tecnica, ma poi anche spesso non si vuole. Vabbè. Abbiamo il presidente di Confindustria Campania, Giorgio Fiore, che in passato, di fronte alle sovrattasse IRAP, IRPEF regionale, ha giustamente fatto il mestiere che ci si aspetta da parte di chi poi a questo punto gli imprenditori, le imprese si trovano a pagare l'effetto della mala gestio della pubblica amministrazione, non avendo poi alcuna responsabilità. Io ricordo a tutti che in Campania poi oltretutto le imprese, i fornitori per esempio della sanità, si trovano non solo a dover pagare di più con le imprese che gravano loro, ma naturalmente a ricevere poi pagamenti dei debiti che ha la pubblica amministrazione nei loro confronti, magari pagati in 680-720 giorni media. Capite che stiamo parlando di una condizione un po' particolare. Il presidente di Confindustria Campania, Giorgio Fiore, gli chiedo qual è la sua impressione di fronte a queste anticipazioni di cui ci ha parlato il direttore al Mattino Cusenza e che ci ha confermato spiegandocelo l'assessore al personale della Regione Campania Sommese. Si può fare un credito a questa iniezione di fiducia, a questa riorganizzazione che può arrivare a metà della pianta organica in meno della Regione Campania, oppure vedere per credere alla luce dell'esperienza, Fiore? Ma guardi, al mondo dell'impresa sostanzialmente interessa che la spesa pubblica diminuisca. Il trasferimento delle risorse umane dalla Regione alle amministrazioni decentrate, cioè comunità montane, comuni e province, di fatto non diminuisce assolutamente la spesa pubblica. Non faccio altro che una partita di spesa, la trasferisco da una parte all'altra, alla fine il beneficio per cittadini è zero. Io farei però un discorso un po' più profondo, Sommese lo diceva prima e io condivido. In effetti, dipendenti dalla Regione Campania non sono solo i 7.000, ma ce ne sono molti, ma molti di più. Se cominciamo a parlare dei forestali, cioè sono alcune migliaia, cominciamo a parlare di tutte le sacche dei corsi di formazione e così via, allora non finiamo più. Allora io dico bene, forse è giusto trasferire, delegare alle amministrazioni decentrate certe funzioni con il relativo personale, poi bisogna vedere anche in quanto tempo si realizzerà questo discorso, perché non credo che sia semplice spostare degli uomini da una parte all'altra, ma richiederà dei tempi. Ma piuttosto andrei a incidere sulla spesa relativa, così lo dicevamo prima, forestali e così via, che sono spese improduttive, che non danno servizi al cittadino e che alla fine dei conti sono soltanto assistenza pubblica. Assessore Sommese, a questa considerazione del presidente di Confindustria Campania, la sua risposta immediata qual è? Io credo che sia pertinente, puntuale, e questo è il tema, perché se noi spostiamo solo le risorse come c'è percezione in giro, senza toccare efficienza, economicità, eccetera, non è che abbiamo fatto una grande cosa ai fini del risultato. Invece l'obiettivo è proprio questo, perché noi abbiamo certamente due fattori, due elementi: semplificare le procedure, le sovrapposizioni di competenze. Do anche la risposta alla mia, interlocutore di Caserta, quando dice cose giuste, che le diseconomie nei tempi, le risorse, l'idea di un federalismo spinto, l'attribuzione di funzioni, deve mirare a tempi certi, deve mirare a una struttura snella, deve mirare ma anche all'economicità. Noi non possiamo immaginare di cedere dipendenti e non rimanendo in campo gli stessi costi della politica, e quindi no, noi abbiamo una serie di diseconomie, duplicazione di personale, di competenze, che oltre ad allungare i tempi sono anche dispendiose. Mi riferisco, ad esempio, sulla formazione, un esempio, verificando, noi abbiamo esternalizzato con accreditamenti ai corsi di formazione esterne alla regione, quindi dei costi sostenuti da parte dello Stato, nello stesso tempo abbiamo lasciato 700 dipendenti comunque comodamente vivere nelle sedi periferiche della regione non utilizzati. 700. Poi abbiamo altre anomalie di comodità anche negli anni, distaccati, comandati, tutto questo. Quando io dicevo la prima parte del cammino, anche coraggioso, che è impopolare, che abbiamo messo in campo, è partito proprio dall'ottimizzazione delle risorse. Poi adesso nel nucleo di valutazione, che molto spesso diventa quasi un atto formale, invece noi riteniamo, come il Presidente Caldoro su questo è stato molto chiaro, noi riteniamo che il nucleo di valutazione, la dirigenza regionale, dovrà essere valutata in base agli obiettivi, ma non quelli formali all'interno del singolo assessorato, perché un'attività produttiva, i tempi per una VAS, una via, così come parlava l'amico di Caserta precedentemente, non possono essere anni. L'imprenditore non può aspettare dopo decenni per avere un parere, un'autorizzazione, poi c'è un altro anno per avere la via, la VAS per un cantiere. E tutto questo io credo che devono entrare negli obiettivi che noi diamo, e quindi saranno premiati, al di là della restrizione che noi stiamo già facendo per legge, perché al di là della nostra scelta, perché ci compone appunto il patto di stabilità, no, ridurre al minimo le consulenze esterne, ridurre al minimo gli sprechi, le duplicazioni, ma nello stesso tempo valutare i nostri dirigenti in base ai risultati che ottengono, in modo rigoroso. Questa è la regione che noi immaginiamo, e poiché io ritengo che il federalismo sia proprio questo, il Mezzogiorno ha le tante intelligenze, ha grande potenzialità, e io credo che su questo si debba anche misurare rispetto al futuro, e non deve temere il federalismo. Bene, eccoci tornati in diretta, stiamo parlando di questa manovra di rientro deficit debito Regione Campania, un po' un banco di prova per un Sud che viva non solo l'esigenza di risanamento, ma la ridefinizione delle proprie competenze in maniera protagonista, non più subendole come imposte dal Nord o dal Centro. Abbiamo visto metà della pianta organica dei dipendenti devoluta alle altre amministrazioni. Certo, così non è che si riduce il perimetro pubblico, però intanto una regione pone il problema: metà dei nostri dipendenti sono di troppo organizzati male. Ho un'ultima domanda per i nostri tre ospiti, perché si è aggiunto anche Gianfranco Viesti, che è in economia all'Università di Bari ed è uno dei protagonisti in questi anni, per fortuna, del residuo dibattito che chiede attenzione ai problemi del Sud, ma in chiave di sostegno all'economia reale e produttiva. Sentiamo un ascoltatore la cui osservazione, secondo me, dà la domanda ai nostri tre ospiti. Giuseppe da Caserta, prego Giuseppe, ci dica. Buongiorno, io innanzitutto premetto che sono un elettore di centrodestra che non ha votato il centrodestra alle ultime elezioni. Però non stiamo parlando di questo, per con tutto rispetto. Perché è una premessa importante rispetto a quello che sto per dire, perché a parte che non avrei mai votato un centrodestra supportato da un E va bene, ma non stiamo parlando di questo. Io entro sullo specifico del problema. Apprezzo quello che sta facendo l'assessore Sommese, perché è una delle problematiche più importanti, che non è solo del Sud. Io sono un dirigente di un'azienda multinazionale svedese che lavora in tutto il centro-sud, dirigo tutto il centro-sud, è un po' il peso di questa problematica. In Campania uno dei problemi più grossi è la burocratizzazione della regione Campania, ma non burocratizzazione legale, è una burocratizzazione legata a quelli che sono il sistema. Un sistema fatta di una connivenza tra dirigenti, tra impiegati, per il rilascio anche di semplice autorizzazione. Noi come azienda siamo andati via dalla Campania, non abbiamo investito in Campania, ma proprio per i tempi che ci vogliono e soprattutto per quelle che sono le spese non legali, chiamiamolo così, che anche i dipendenti e i funzionari della regione, anche per un semplice timbro, ti impongono. Grazie a Giuseppe da Caserta. Una grande impresa multinazionale dovendo comparare le esternalità negative, perché gli incentivi del malfunzionamento, questo sono amministrativo, e l'eccesso di peso tributario, di regole, eccetera, dico qui, oltre ai costi e al peso della legalità, significa fare i conti con l'illegalità. Campania, niente. Allora, la domanda è questa, che io faccio a Fiore, a Bessi e poi a Cusenza. La gradualità di questo intervento di cui ci ha parlato Sommese della Giunta Caldoro, come fai i conti poi con la radicalità della discontinuità che è necessaria? Faccio un esempio: in questa finanziaria è appena passato per le imprese del sud la possibilità per le amministrazioni locali di sperimentare anche l'azzeramento dell'IRAP, per dire abbattiamole le imposte, vediamo se questo scatena investimenti nuovi. In realtà poi di fatto con questa gradualità l'IRAP e l'IRPEF regionale aumentano. Allora io chiedo a Fiore, a Vieste e a Cusenza: la gradualità è l'unica cosa che ci possiamo permettere? O la discontinuità sarebbe quello che i politici dovrebbero capire di fare? Cioè metà della pianta organica o siamo d'accordo oppure fuori entro 3 anni? Perché comunque questo deve essere il peso. Meno tasse così si fanno, con la prima via no. Chiedo a Fiore innanzitutto, qual è la sua esperienza come rappresentante di Confindustria nella Regione Campania? Radicalità o discontinuità? Ma discontinuità, infatti lo dicevo, a parte il discorso della pianta organica bisogna incidere sui costi del personale, che di fatto è dipendente regionale, cioè quelle sacche di società annesse alla regione, i forestali e così via, là bisogna andare a incidere assolutamente. Questo è un segnale di discontinuità. Se dobbiamo dare un sussidio di disoccupazione, diamo il sussidio di disoccupazione, ma non facciamo nuove assunzioni pubbliche. Perché Io uniamo il danno dello stipendio al danno di un'inefficienza di una macchina. Anche nel settore pubblico per le razionalizzazioni occorrono gli ammortizzatori che possano preludere, l'abbiamo visto ieri con la mobilità in Friuli dei dipendenti dei comuni, anche poi come capita nel settore privato, perché questo capita ai dipendenti privati, eventualmente alla fine del periodo di mobilità a doversi riallocare sul posto di lavoro. Deve capitare anche nel settore pubblico. Io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Fiore. Viesti, questo esempio della Campania ci fa pensare, le fa pensare a un federalismo, a un decentramento, alla riduzione dei costi che vedono nel sud un atteggiamento non più, diciamo, passivo come è stato in questi anni, imputandolo alla Lega, al nord, al governo, ma una specie di riscatto amministrativo dal sud, dalle esperienze territoriali. Penso alla Campania, ma anche la Sicilia sta facendo sulla sanità qualcosa. Lei che impressione ha in questi mesi? Ma guardi, faccio 2 osservazioni generali. La prima è che questo mito per cui fare affettine nel settore pubblico è la chiave per il rilancio del paese mi sembra una di quelle scorciatoie pericolose che ci stiamo inventando in un'Italia che non cresce più e cerca di risparmiare sui servizi generali sperando che questo migliori la performance delle imprese. Mi pare una strada su cui potremmo discutere a lungo. La seconda è che io ho ascoltato con attenzione, siamo alla solita sindrome dell'anno zero, sarebbe stato carino ascoltare qualche sindaco o qualche rappresentante della passata amministrazione per capire se è proprio vero che tutto sempre e comunque un disastro. Lunedì il Sole 24 Ore ha fatto una bizzarra classifica sulla performance delle regioni. Se lei guarda quei dati davvero, quello che ci dicono una cosa buffa, cioè che la Campania è la regione in Italia che ha migliorato di più negli 8 ambiti che gli stessi analisti del Sole 24 Ore ci indicavano. Allora, professore, lei ha visto che il punto di partenza però era spaventosamente basso. È chiaro che il delta di miglioramento è apprezzabile. Parlando, ma il punto di partenza è sempre basso. Allora, o valutiamo i miglioramenti o valutiamo il livello assoluto. Siccome il miglioramento premia la Campania, allora dobbiamo riportare al livello assoluto. Diciamo delle due l'una. Se dobbiamo dire se gli enti locali in Lombardia sono più efficienti che in Campania, figuri, certo. La domanda è: che è successo negli ultimi anni? La risposta che è stata data stamattina da molti è: tutto è soltanto un disastro. Io non sono molto convinto di questo. Tra l'altro non credo che ci serva più di tanto, perché se continuiamo a dipingere un quadro in cui tutto è tangenti, malaffare e malgoverno, è molto difficile avere i punti di partenza da cui ricominciare. Credo che un giudizio su questi ultimi anni più interessante per tutti noi sia capire gli ambiti nei quali si è migliorato o no. Come mai in alcune province della Sardegna la raccolta differenziata da zero è passata al 40%, cioè oltre la media italiana? Non si tratta di fare gli avvocati degli uni e degli altri, cosa che purtroppo sento fare molto spesso. Bensì di capire, certo. Di capire un po' meglio quello che è successo. E da questo punto di vista, dovesse dire sinteticamente, le esperienze concrete che sono in moto fanno ben sperare? Perché io esattamente questo l'avevo chiesto. No, sono ancora troppo deboli, sono deboli a livello locale e soprattutto manca completamente la sponda nazionale, nel senso che a livello nazionale mancano i punti di appoggio a regioni e amministrazioni che vogliono cambiare. Lei ha citato la possibilità dell'ultima manovra finanziaria di tagliare l'IRAP, ma la stessa manovra finanziaria fa un taglio alle risorse correnti così grande che la riduzione della pressione fiscale tramite l'IRAP diventa un mito. E quindi diventa una grida manzoniana per illudere gli elettori. Bisogna un po' intendersi, non si fanno le nozze con i fichi secchi. Se vogliamo partire, come penso potremmo trovare un punto comune di interesse, da un settore pubblico più snello ed efficiente ma anche più capace, bisogna valutare bene risorse, risultati e certo. Disponibilità. L'esperienza degli obiettivi di servizio delle regioni del sud, che è un'altra cosa interessante che non molti guardano, che mira proprio a questo. Grazie al professor Viesti, l'avevo annunciato apposta come una voce attenta in base ai numeri del sud al realismo, non alla semplificazione ideologica nord contro sud. Direttore Cusenza, per concludere, oltre al fatto che vi dobbiamo ancora ringraziare tutti per il ruolo di anticipatore che avete avuto giornalisticamente dei particolari di questa manovra, dovesse lei sintetizzare nella sua esperienza di questi anni come direttore del Mattino quanto sia difficile far convivere e proporre ai propri lettori la necessità del gradualismo e del realismo rispetto alla radicalità delle discontinuità che tutti invocano, dovesse dirla in sintesi come fa ad amministrare queste due categorie così apparentemente opposte? Ma sicuramente in campagna, diciamo, ora a prescindere, come giustamente diceva Viesti, da queste barricate classiche, ci sono Guelfi e Ghibellini, la precedente amministrazione, la nuova amministrazione, sicuramente io direi che c'è una fase adulta e una fase più adolescenziale, che non riguarda naturalmente solo la campagna o il sud nel suo complesso, ma direi che è la presa d'atto un po' di quello che è l'amministrazione pubblica in Italia rispetto ai problemi appunto dell'economia, perché è chiaro che perché sono esplosi questi problemi in modo più evidente e appunto il sud è quello come dire un po' in trincea perché ne paga le conseguenze più salate e perché evidentemente essendo stato ristretto il rubinetto centrale alla fine quello che si era fatto male a livello periferico, a livello locale e territoriale è venuto fuori in modo più violento e drastico. Io penso che in Campania ci sia la possibilità effettivamente di come dire, operare un percorso virtuoso del genere. Quello che temo non è per sfiducia nella classe politica, però onestamente è figlio, questo mio timore è figlio appunto delle esperienze passate, è che davanti a come dire, a atti necessari, visti appunto i conti economici, poi si possa recedere perché poi ci sia gente con i forconi per strada, cosa che tra l'altro in campagna ci apprestiamo secondo me a vedere, indipendentemente dalle misure della Giunta Caldoro, ma perché come abbiamo raccontato sul Mattino, diciamo che questo è passato abbastanza più inosservato dei provvedimenti che riguardavano la Regione, c'è una polveriera disoccupazione in questo momento nella Cina, ma che forse sotto la linea gotica non impressiona più, ma sopra mi auguro almeno che possa suscitare qualche allarme, e cioè la lettera di un gruppo di disoccupati della SIA, che era l'azienda appunto del consorzio che si occupa della raccolta dei rifiuti, che hanno scritto alla camorra provocatoriamente gli occhi dei posti di lavoro perché non sono garantiti a nessuno. Ecco, questa realtà che ci richiama il direttore del Mattino è una realtà che in una regione come la Campania effettivamente dovrebbe fare discutere di più tutto il paese. Ha ragione secondo me nel dire che al sud guardiamo con un eccesso di semplificazione il professor Viesti. Io aggiungo di mio però che dovete anche comprendere la radicalità di chi ricorda che per fare impresa, allocare risorse e fare occupazione, è vero, ha ragione il professor Viesti, non possiamo disboscare cara al pubblico. Però insomma, gli Stati Uniti, che pure hanno un deficit del 10% del PIL, crescono meno di quello che ci si attendeva, eccetera. Gettito federale 14,8% del PIL a fine 2009. 14,8, da noi è 44%, calcolato su un denominatore in cui c'è il 17% di PIL falso, che cioè che non paga le tasse, quindi siamo a 52%. Voi capite che tra 14,8% di gettito federale, che non arriva al 30, ammesso poi al gettito dell'estate degli stati e delle contee, e il 52% c'è un oceano. In quell'oceano c'è una pubblica amministrazione che ci costa troppo, è inutile dire di no, ed è organizzata male, senza generalizzare, mancare di rispetto a nessuno. Ed è anche da questo che dipendono poi i disoccupati che scrivono al Camorra e che non ci possono piacere, come non ci piacciono i troppi soldi levatici con le tasse per quello che otteniamo in cambio. Grazie a tutti. Devo saltare i ringraziamenti in regia, Alessandro Marcotulli, eccetera, e dare appuntamento direttamente a lunedì in linea al Giornale Radio.